cosa posso dire di Francesco Guccini, una grande icona della musica contemporanea, il paradigma stesso dell'essere cantautore, il più colto dei cantautori in circolazione, come lo definì Umberto Eco. Forse che la sua poesia prende il volo con la spinta siderale della musica per prendere in prestito le parole del giallista e compagnon de plume Loriano Machiavelli, o che la vena di malinconia che spesso accompagna i suoi versi ha il sapore del vino con cui li bagna perché abbiano la consistenza delle cose più autentiche, oppure ancora che la forza poetica che esprime alle radici affondate nella sua Pavana, provincia di Pistoia, da dove getta uno sguardo critico innamorato al tempo stesso su Bologna, città prototipo delle varie umanità del mondo che egli da sempre celebra e fustica. Noi conosciamo bene il Guccini cantautore, bastano i titoli delle sue più celebri canzoni per evocare tutto un universo di poesie straordinariamente fascinoso, ma anche ben radicato nel presente, nella vita reale e nella storia. Auschwitz, Dio è morto, la locomotiva, Cyrano, il vecchio e il bambino. Ma Francesco Guccini è anche uno scrittore. Dal 1989, anno delle croniche epifaniche, ha pubblicato libri che hanno commosso, che hanno descritto, con soluzioni linguistico-stilistiche molto originali, un mondo e un tempo perduti, usando le corde della malinconia e della passione, dell'amarezza e del dolore. Ora è qui, per la seconda volta, almeno con me, la prima volta era nel 2013 al Liceo di Lugano 2, per presentarci il giallo Tempo da Elfi, scritto con l'amico Loriano Machiavelli, un sodalizio iniziato 20 anni fa con Macaroni. Lascio il delicato compito di farci conoscere meglio l'uomo, lo scrittore Francesco Guccini e Gabriella Fenocchio. Con Ezio Raimondi, di cui è stata allieva, Gabriella Fenocchio ha curato 2 antologie scolastiche della letteratura italiana, ha pubblicato saggi su Fenoglio, sulla prosa narrativa del Novecento. Un altro versante dei suoi studi ha riguardato il giornalismo letterario del Settecento in Emilia-Romagna. Nei prossimi mesi usciranno per sua cura l'edizione commentata delle Sate di Vittorio Alfieri e, novità, se lo posso dire, un'antologia delle canzoni di Francesco Guccini. Grazie mille, Francesco, della tua generosità di essere qui con noi, di aver accettato il nostro invito, e grazie mille a Gabriella per condurre questo dialogo. E grazie a voi di essere presenti. No, io devo ringraziare di essere venuti e parlare di questo libro, che ma ne parlerà Gabriella, che è un giallo. Gli elfi di protagonisti di questo giallo non sono ovviamente non lo so, ma non sono i personaggi delle leggende celtiche, sono dei ragazzi, o meno ragazzi adesso, che dalla fine degli anni 70 sono venuti a stabilirsi nelle località del nostro Appennino pistoiese, ormai solo pistoiese, al confine col bolognese, in piccoli villaggi, piccoli gruppetti di case abbandonate dagli abitanti che vi stazionavano, perché erano emigrati, questa gente, in Corsica, in Francia, forse anche in Svizzera. E sono hippie, chiamiamoli così per comodità, che vivono senza acqua corrente, senza luce, vivendo con qualche animale, un po' d'orti, un po' di prodotti del bosco e così via, e confinano con gli abitanti normali che sono più in basso, lungo la statale. La statale porrettana, quella che unisce Ferrara, passando attraverso Bologna, Pistoia, ma lì è una statale di fantasia. Comunque convivono con la gente del luogo, andando nei posti più abitati, come nella realtà Porretta Terme, ma nel romanzo locale di luogo di fantasia, suona qualcuno la chitarra per tirare su 2 soldi, vendendo per Natale l'agrifoglio con le bacche rosse, focacce fatte da loro, insomma cercano di convivere più o meno, accolti più o meno bene dalla popolazione, qualcuno accolto bene, li accoglie bene, altri con grandi sospetti, come spesso succede a questa gente. Ma è un giallo, quindi c'è un morto, c'è un investigatore che indaga su questo poveretto morto e alla fine si scoprirà chi è stato e perché questo è stato ucciso o quasi ucciso, insomma. Però lascio la parola a Gabriella, che vi spiegherà meglio, vi racconterà meglio questo giallo. Ti chiederò appunto un po' di cose. Diceva prima Lello Sargenti che questo libro esce a 20 anni dal primo giallo, a Quattro mani con Machiavelli. Torno brevemente sui titoli. Il primo uscito nel 97, Macaroni, romanzo di santi e delinquenti. Poi un disco dei Platters l'anno dopo, nel 2001 Questo sangue che impasta la terra, nel 2007 Tango e gli altri, romanzo di una raffica, anzi tre, nel 2011 Mala stagione, nel 2012 La pioggia fa sul serio, romanzo di frane e altri delitti. E anche qui c'è un sottotitolo, Tempo da elfi, romanzo di boschi, lupi e altri misteri. E questi sottotitoli ci sono nella maggior parte dei casi e sono sempre allusivi, naturalmente, mai che dicano con precisione qualcosa. Partirei da una cosa che è ciò che caratterizza questi romanzi gialli scritti a quattro mani. Il giallo ha come ambientazione tradizionale la città. Perché la città è labirinto, perché la città è mistero, perché in città tradizionalmente, anche nella metropoli, si svolgono i delitti. Nei romanzi che tu hai scritto con Loriano, l'ambientazione è tutt'altra, e questa è già una novità appunto di questi romanzi. Tu, scherzando, dici a Loriano che lui è molto meno montanaro di te, ma questa ambientazione appunto montanara peraltro conferisce a questi romanzi, secondo me in questo c'è forse ancora più degli altri, la possibilità che si saldi la trama, che è sempre una trama vincente, che è sempre una trama così con tutti i crismi appunto del giallo che tiene sospesi fino alla fine, con dei paesaggi bellissimi, con una montagna che si vede che è quella che tu hai dentro, con i colori, le persone, certi personaggi che chi conosce un po' la tua vita e i tuoi luoghi riconosce. Questa idea, appunto, perché volevo partire proprio da qui, che non riguarda solo questo, ma anche altri libri, di ambientare appunto un genere di questo tipo in montagna è venuta a te, immagino. Sì, è venuta a me, ma perché il primo giallo, Macaroni, che parla anche dell'emigrazione italiana, in questo caso del caso di Macaroni in Francia, alla fine dell'altro secolo, alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento. Era un episodio di immigrazione però marginale oppure centrale, ma non faceva parte del tessuto del giallo, perché il giallo si basava su un prete, questa è una storia vera che è accaduta nel mio paese in quel periodo, siamo ai primi del Novecento, trovato morto nella gora di un mulino acqua. Alcuni dicevano, si sapeva che questo prete beveva spesso, era spesso ubriaco, quindi era caduto in un fosso che portava acqua al mulino, l'acqua l'aveva portato giù, però i fossi in quella stagione non sono mai così ricchi d'acqua da portare giù un omone, anche come era questo prete. E difatti ci fu anche qualche battibecco sulla stampa locale, un giornale clericale, un giornale anarchico, insomma, litigarono sulla morte di questo prete. E mi piaceva questa idea del prete trovato morto. Poi avevo pensato anche all'immigrazione, che era la parte centrale della nostra terra di migranti, insomma. Allora, quando l'Italia adesso li accoglie, ma una volta li esportava, e alla fine doveva finire durante una partita a carte. Uno diceva, lanciava una cosa e si dava l'innesco al maresciallo dei carabinieri per risolvere il problema. Perché un maresciallo dei carabinieri? Perché in un piccolo paese di montagna dove si svolgeva questo fatto c'è il maresciallo dei carabinieri, e abbiamo continuato con questo maresciallo dei carabinieri fino li abbiamo fatto attraversare, perché il primo giallo si svolge alla fine del 39, primi del 40, quindi il maresciallo è giovanissimo, viene mandato in questo paese di montagna per punizione perché si è rifiutato di castigare, anzi si è rifiutato di assolvere 5 giovinastri fascisti che avevano dato fastidio, eccetera, e viene spedito lassù, e lassù in questo paese lui meridionale, Italia meridionale, si trova al primo tempo a disagio, al freddo, e dobbiamo immaginarsi cosa poteva essere l'Appennino nel 39-40, freddo, senza riscaldamento, come un po' gli Elfi adesso. E così, e poi ci abbiamo preso gusto, perché è nato per caso il nostro sodalizio. E il primo giallo, il primo, l'avevamo spedito a una casa editrice ed era stato rifiutato. Poi, vedendo assieme per caso un editor della Mondadori, ho detto, ma perché non provate a farlo assieme? Abbiamo provato a farlo assieme, abbiamo avuto un certo successo e abbiamo continuato con gli altri gialli dopo. Alla fine il nostro personaggio non è di quelli sempiterni, cioè che non hanno età, continuano a indagare per tutta la vita. Il nostro ha un'età precisa e quindi gli altri gialli sono andati avanti nel tempo. Addirittura abbiamo fatto Tango e gli altri, si svolge durante la Resistenza, fino agli ultimi giorni. Poi questo nostro maresciallo, Benedetto Santovito, è diventato vecchio, è andato in pensione, forse morto, sicuramente morto, ma è meglio non dirlo, e abbiamo cambiato personaggio. Abbiamo detto, perché non fare uno della Forestale? Il corpo della Forestale è un corpo, non so se in Svizzera ci sono le guardie forestali, ci sono i forestali, e soltanto che abbiamo fatto 2 romanzi, questo è il terzo, Tempo da Elfi, soltanto che ultimamente, chiedo scusa, ma il posto è aprico, ma non è primavera, è autunno. Quindi. E cosa è successo? Che i forestali non esistono più, sono stati accorpati ai carabinieri, quindi adesso si chiamano carabinieri forestali. Non si sa bene per quale motivo sia successa questa cosa, perché mentre un corpo indipendente, i carabinieri fanno parte dell'esercito, sono un'arma dell'esercito. E quindi questi forestali si trovano a loro malgrado. È venuto un paio di settimane fa un forestale a casa mia per farsi firmare, farsi fare l'autografo sul libro. Aveva un'automobile verdolina, come era quella della forestale, però con scritto sopra carabinieri. Aveva le mostrine da carabinieri, insomma, però la divisa era quella vecchia da forestale, quindi non si capisce bene cosa stia succedendo ai forestali. E difatti, alla fine del nostro romanzo, l'eroe, chiamiamolo così, forse lascia il corpo della forestale e si mette a fare l'elfo anche lui, forse. Adesso dobbiamo ancora discutere di questo. Comunque, mentre Benedetto Santovito parlava dell'Appennino nel passato, Marco Gherardini, che è l'ispettore della forestale, parla dell'Appennino ad oggi, adesso, quindi è contemporaneo a noi, alle nostre vicende attuali. Sì, infatti si sente questa fin dalle prime pagine, la nostalgia appunto di Marco Gherardini, Poiana, così come lo chiamano, una nostalgia, o meglio un rammarico che riguarda proprio ciò che diceva Francesco, e cioè la fusione, l'assimilazione che si darà fra la guardia fra il corpo forestale e i carabinieri. E poi la tristezza per un Appennino che comunque sta cambiando. Ci sono diversi accenni alle orde di turisti che arrivano, ci sono accenni a dei fatti autentici di quella natura e di quei luoghi che si sono perduti. E allora mi veniva così un po' da pensare questo, leggendolo, che da una parte c'è questo aspetto, Dall'altro c'è la comunità degli elfi, come tu dicevi prima, persone che non hanno né la luce né l'acqua, qualche soldo lo racimolano ogni tanto per caffè e sigarette. E vino. E vino. Hanno così una vita molto legata alla natura, ai ritmi della natura, alla lontananza in qualche modo dalla civiltà. Eppure, come la natura dell'Appennino si corrompe, così in questo giallo sotto gli elfi c'è qualcos'altro, cioè c'è tutt'altro che una dimensione naturale, ma c'è il delitto, c'è il commercio di droga, ci sono così i mali e gli orrori della civilizzazione. Fra l'altro, tutto questo secondo me è reso anche molto bene proprio dal gioco di travestimenti che si dà nel corso del romanzo. Prima pranzo dicevamo, ma forse eccessiva la parte sulle maschere, però la parte sulle maschere forse è anche una specie di correlativo oggettivo di tutto questo, così come la mescolanza di lingua italiana e lingua tedesca, il tedesco che copre l'italiano, viceversa, sembrerebbe proprio alludere a a un aspetto, così, a una mitologia forse naturale che sembra esserci in queste comunità e però sotto a qualcosa d'altro. Ma dunque, tu sei una critica molto brava, e lo vedo quando mi leggi di una mia canzone quello che hai trovato dentro la mia canzone, e io ti chiedo: ma sei sicura che io abbia veramente detto tutta quella roba lì? Perché a volte rimango sbalordito di quello che ho scritto in queste canzoni. Può darsi che in questo caso ci sia qualcosa d'altro, però sì, però allora, perché la lingua tedesca? Diciamo che gli elfi non sono tutti italiani. Molti di loro, non dico la maggior parte, ma molti di loro vengono dall'estero, sono tedeschi, francesi, spagnoli, inglesi, addirittura scandinavi. E quindi sono mescolati poi agli italiani. E vengono, la droga no, perché la droga sono stati accusati di fare uso di droga per commerciare in droga. Ma loro hanno reagito violentemente, pubblicando un manifestino, mettendo questi manifestini giù nel paese, dicendo che non è vero, insomma, noi soltanto un po' di cannabis per uso personale, ma di solito bevono del vino, bevono del vinaccio di solito. E io non ho messo, adesso non mi ricordo esattamente come ho cambiato il nome, ma è una marca di vinaccio toscano che comprano giù ci sono due bar che loro frequentano giù in Fondovalle, e uno soprattutto vende questo vinaccio Puntalone, forse, non mi ricordo, viene chiamato così, e prendono delle gran balle forse, perché d'altra parte su di là non c'è mica tanto da fare, c'è forse amore libero, ma ormai sono nati dei figli, hanno dei figli, li mandano a scuola e sono belli questi bambini, rubicondi, sani, di odore caratteristico, perché avendo l'acqua corrente d'estate fanno dei ruscelli, così si lavano, e infatti c'è un episodio dove il nostro ispettore del forestale, andando in giro così, trova due elfe nude che si bagnano in un ruscello, in un fosso, come lo chiamiamo noi, e rimane un po' sbalordito, insomma, non male, ma e questo è un fatto vero, perché un amico che andava a cavallo ne ha trovate tre di elfe nude che facendo il bagno così, quindi ho riportato immediatamente questo fatto, dando questo pizzico di erotismo, che anche perché Marco Gherardini, che è il nome dell'ispettore della forestale, detto Poiana, la Poiana però non è da noi il rapace, cioè non è soltanto il rapace, è anche lo spazzaneve, quando nel dopoguerra, adesso sono spazzaneve meravigliosi, con delle lame incredibili, eccetera. Allora però era semplicemente, prendevano un camioncino, poi ci mettono davanti due assi rinforzate con del ferro, questa era chiamata la Poiana, come il becco del rapace, ed era lo spazzaneve la Poiana. E Marco Gherardini, detto Poiana, è un personaggio che esiste veramente, ha un negozio di ferramenta, a diverse luci, uno che era una quarantina d'anni, un po' più vecchio dell'eroe dei nostri romanzi, e mi ha detto, ma a me fa piacere che tu metta come nome a quello del personaggio vero, mi basta che tu mi faccia trombare abbastanza. E difatti ogni tanto lui, ogni giallo c'ha una morosa nuova, ecco, ogni giallo almeno staremo a vedere come va a finire con questa qua, perché vanno a vivere assieme, quindi non si sa bene quale sarà la fine. E così, questo è... No, infatti questo sarà un vincolo, immagino, che vi dovete porre per il prossimo romanzo, infatti è un bel casino. O cambiamo personaggio. Tra l'altro Elena mi sembra colta, almeno da come la fate parlare, sembra persona colta, e si fa anche la doccia a un certo punto. Quindi sì. Non sì, si lavino. No, perché quando va in casa, Gherardini, allora vorrebbe dirglielo, vuoi fare la doccia, ma si vergogna un pochino. È lei che lo capisce. Ci posso andare a fare la doccia? Sì, vai pure, cara. E va a fare la doccia. No, perché ogni tanto questi elfi... che fra l'altro, parlandone con una paesana, ho detto poveretti, e lei mi ha detto, ma l'hanno scelto loro di fare gli elfi. Quindi voglio dire, non sono poveretti. E poi pare che qualcuno abbia anche dei soldi, insomma. E questo fatto del fatto che non si lavano, di odore caratteristico, dicevo, ogni tanto quando ci hanno fanno l'autostop, e se li carichi in macchina, dopo devi arieggiare di molto l'abitacolo, perché lasciano una traccia caratteristica del loro passaggio. È buona gente. Adesso sono circa 200 in questa stagione, perché comincia a, noi diciamo, a stricare, a arrivare l'inverno. E l'inverno c'è freddo, soprattutto perché sono molto più in alto di noi, abbastanza più in alto, lungo le coste del nostro Appennino. E d'inverno, insomma, si scaldano col camino, si scalderanno col camino. Io d'inverno non ci sono mai stato. E col camino però puzza la roba, poi senza lavarsi, possiamo immaginarsi. Però hanno il telefonino, molti hanno il telefonino, certo, e soprattutto infatti gli stranieri. E potrei raccontare anche, se vuoi, che un giorno, perché quando una volta camminavo molto per l'Appennino, adesso un po' meno, diciamo, molto meno, e sono capitato con alcuni, un gruppo d'amici, vicino a un villaggio di questi elfi. E mentre erano lì fermi vicino a una fontana a mangiare un panino, arriva una coppia di mezza età, sugli anni 50, eleganti, insomma, che parlavano tedesco. Tutto misterioso, questa apparizione in mezzo a un bosco, a un castagneto. E allora c'era uno mezzo a noi che parlava tedesco, e dice, sono i genitori di un'elfa, di una ragazza tedesca che è in mezzo a loro. E ho detto, accidenti, ma parli bene il tedesco? Dice, sì, l'ho imparato, pensate, mi ricordo quando sono arrivato là, spogliati nudi, un freddo, queste docce. Ho detto, anche mio babbo è stato prigioniero in Germania. Lui ha detto, no, io ero nelle SS italiane. Ho detto, auguri. E quindi ho capito perché non è tornato subito al paese dopo la guerra, è sparito per un po'. Per dire. E poi sono andato nel villaggio degli Elfi, questo delle SS italiane è anche veterinario, e si è avvicinato uno a dire, ma abbiamo degli animali con un po' di scabbia. E poi si è scoperto che anche qualcuno di loro aveva un po' di scabbia. E così, insomma, non... E mangiavano, aveva un a fare così tondo, un piatto tondo di rame, credo, chissà dove l'avevano preso. C'erano delle erbe, dei formaggi, perché non sono vegani o vegetariani. Mangiano, hanno anche degli animali, insomma. Anzi, vanno a cercare, in questa stagione, vanno a cercare le mele che cadono, hanno dei maiali, quindi non so come li macelleranno, insomma, faranno delle cose. E stanno in questo villaggio, insomma. Fra l'altro, come dicono nel romanzo, c'era una teca in una casa dove di solito mettevano un'immagine sacra, e di solito era Sant'Antonio del Porcello, insomma. Non c'era più, c'era una dea Calì, così strana, come cambiano i tempi e quali idoli nuovi vengono omaggiati. Lo sapevi che la scrittrice che aveva scritto con grande successo L'eleganza del riccio ha pubblicato l'anno scorso un romanzo che è La vita degli elfi, che però è stato recensito molto malamente in generale, perché non si capisce bene se ci sia più una dimensione fantastica o una dimensione reale. Nel vostro caso è assolutamente reale, anche per le ragioni appunto che dicevi di questa comunità, e anche così la storia d'amore fra i due è davvero una storia d'amore in cui si saldano un po' le diverse prospettive, i diversi punti di vista di questi due personaggi. Sì, ma ripeto che una volta, penso, mi diceva un certo Giacomo, che è un elfo, un ex elfo, che viveva ultimamente, io l'ho conosciuto vicino a Pavana, c'è un grande lago artificiale, quello di Lugano è molto più bello, ammetto, ma... il nostro, insomma, qualcosina. E lui viveva lì, ai bordi di questo lago, su una roulotte sua. Quindi gente che qualche cosa, anche qualche soldo ce l'hanno. E dice, una volta c'era più il libero amore, poi sono cominciati a nascere i bambini, e lì poi è arrivata anche l'AIDS, anche quello lì, un'altra frenata. E poi, difatti, ci sono i raminghi, questo che muore, è un ramingo, che poi il linguaggio elfi ramingo è preso dal Signore degli Anelli, perché quando sono arrivati alla fine degli anni 70 c'era questo romanzo Il Signore degli Anelli di Tolkien, che trionfava moltissimo sia a destra che a sinistra, sia la destra neofascista che la sinistra extraparlamentare, e questi della sinistra extraparlamentare pare che i primi nuclei siano stati anarchici, arrivati sull'Appennino per sfuggire alla legge reale, e hanno usato diciamo questi nomi di Tolkien, il Signore degli Anelli, quindi loro sono autochiamati elfi, il posto si chiamano Gran Burone, Piccolo Burone, e quindi questa terminologia, il Ramingo, anche un altro personaggio del Signore degli Anelli. Il Ramingo è il personaggio che viene trovato morto, ed è un Ramingo. I Ramingi sono chiamati quelli che arrivano quando c'è la buona stagione, quando non c'è freddo, quando comincia la tarda primavera verso aprile-maggio, e così, sperando di trovare qualche elfa disponibile, insomma, ma vengono di solito trattati marginalmente, presi in giro e così, insomma. Hanno anche delle cure di tipo fitoterapia, cioè con le erbe fanno queste cose. E questo Giacomo aveva dei sandali fatti da lui, che non erano quelli di cuoio. Quando l'ho detto a Loriano, bisogna che stia attento quando tu parli con Loriano, lui li prende subito la cosa e la trasforma, secondo la sua fantasia, non dico malata, ma insomma, sono diventati sandali di cuoio, con l'odore del cuoio, invece erano sandali di plastica, fatti con della plastica raccogliticcia, non so, insomma. Mio, che stia molto attento. Ed è bella questa così, definizione che si dà del ramingo. Allora, cos'è un ramingo? Uno che gli piace girare, non sta fisso in un posto, in un villaggio, va e viene, ma non scambiarlo per un turista, quella è un'offesa. Un turista, noi diciamo così, è... Sai quelli che vengono come in vacanza per curiosità, con la macchina fotografica, per farsi qualche sbarba, sai la storia dell'amore libero, eccetera. Vengono qui nella buona stagione perché l'inverno è più dura, vogliono solo divertirsi, scopare e poi andar via. Dei turisti pianoloni, insomma. Pianoloni. È il vino. Punto. Pianoloni. Giacomo Rise rideva spesso di gola e si batteva le mani sulle cosce. Sì, è una parola del nostro linguaggio. Sai, a vivere per tanti anni assieme diventa anche un gergo. Viene da vino che vendevano giù alla botteghina sulla statale, appunto. Quindi. Poi sono nati questi bambini. E poi qualcuno è morto, ma che hanno fatto dei funerali strani. Hanno anche nomi curiosi, anche se Loriano, devo dire, è un po' esagerato con i nomi. Beh, però sono belli. Sì, vabbè, Crepuscolo, dei nomi curiosi, sono meno usati questi nomi, forse mezzo indiani dell'India, insomma. Ma forse si chiameranno anche Giuseppe, Maria e Giovanni, solo. È così. Senti Francesco, dici anche qualcosa di quest'altro personaggio, che è un personaggio che è già comparso nei gialli, che è un personaggio molto simpatico, molto scorbutico, ma molto simpatico, che è Adumas. Adumas. A partire appunto dal nome. Se uno va per, ma è difficile che uno di voi vada, in un paesino chiamato Chiapporato, che è completamente abbandonato. Anche se mi hanno detto che un ingegnere, un architetto, ha comprato delle case, vorrebbe fare tutta una serie di cambiamenti. Oddio, da un lato è meglio restaurare tutto e fare, che lasciarlo andare. Dall'altro però non so cosa voglia fare. Comunque, in questo paesino, che è delizioso, fra l'altro c'è anche un simbolo vescovile su una casa, è circondato da castagni secolari, è su un monte. Fino a qualche tempo fa vivono soltanto tre persone, marito e padre, moglie e figlia. Il marito e padre, se uno va nel cimitero di Chiapporato, il cognome non lo ricordo, ma il nome è bellissimo, Adumas. Vede che il padre di questo Dumas ha letto i Tre Moschettieri e ha visto A. Dumas, e lui ha tralasciato il punto, ha chiamato il figlio Adumas. Adumas, adesso non ricordo il cognome, ma Adumas Meschiari, facciamo conto. E il nome è talmente bello, è talmente strano che l'ho utilizzato. E Loriano, mi dispiace che non ci sia, che carica molto i suoi personaggi, l'ha trasformato in un vecchio burbero che gira sempre con mezzo fiasco di grappa da lui distillata di contrabbando, che non è vero, non distilla più nessuno di contrabbando. In tempo di guerra, sì, in tempo di guerra distillavano, e mi hanno detto, non so se è una leggenda metropolitana, ma non credo, che distillassero anche il Pozzo Nero, non so se perché tutto quello che fermenta si può distillare, e lo vendevano agli americani. E non so che retrogusto avesse, che bouquet avesse, però è alcol, insomma, qua notte, quindi è alcol, è chiaro. Ma lui distilla grappa, non sa bene con che cosa, perché ha un po' d'orto, è pensionato, e ogni tanto va a cacciare, ma secondo Loriano è un cacciatore di frodo di professione, ma non è vero, insomma, secondo me no, però ogni tanto mi scappa Loriano da qualche parte. E l'ha fatto, ma è un personaggio curioso, è un anziano, non è vecchio, anziano, burbero, ed è un personaggio della foresta, cioè fa parte della serie della Forestale, del ciclo degli ultimi tre, ecco, Adumas, è uno bellissimo Adumas. Che poi in questo romanzo ha anche una parte così abbastanza consistente, perché comporta poi una spinta anche centrifuga a un certo punto, quindi insomma... È una quasi una storia che prende una certa autonomia. Ma anche lì è Loriano che... È secondo me litigate molto quando Mette. Dico, ma perché sospettare di Adumas, eccetera? C'è tutta la storia di Adumas che scappa con Gherardini che gli corre dietro. Vabbè, è curioso. Potrei raccontare, dato che qui credo di non averla mai raccontata, la storia di San Cigolino e il suo mulo. Ridono già quelli che la sanno. San Cigolino arriva a Loriano, mi fa, perché Loriano abita adesso fra Bologna e un paesino della montagna modenese, ed è lui che, dato che io non ho patente, viene da Montombraro, questo paesino vicino a Zocca, la Zocca di Vasco Rossi, viene a Pavana, parliamo, ci leggiamo quello che abbiamo scritto, poi andiamo a mangiare assieme. E lui però è un montanaro di ritorno, non ha vissuto veramente la montagna, quindi io tre volte parlo troppo con lui, lui prende e subito lo mette sui libri. E quindi le sagre, queste cose, per lui sono, le vuole mettere continuamente. E dice, guarda, allora... Ho pensato a questa cosa, c'è in paese è la sagra di San Cigolino e il suo mulo. Ho detto, ma San chi? Dice, San Cigolino e il suo mulo. Dico, senti, ma dove l'hai tirato fuori San Cigolino? Ah, dice, l'ho inventato io. Ma come l'ha inventato tutti i santi che abbiamo in Italia, diventare un santo, un nome improbabile? Che a lui piacciono quei nomi improbabili. C'è un altro personaggio, un altro giallo, c'è un personaggio che si chiama Gialdiffa. Gialdiffa è un nome inesistente, anche se lui sostiene di aver conosciuto uno tempo fa che si chiama Gialdiffa. Ma dico, ma è possibile Gialdiffa? San Cigolino e il suo muro, vede Gloriano, dai, ci pensiamo un pochino. Ma no, dai, è bello San Cigolino, ma poi Cigolino, talmente improbabile. Allora la volta dopo ci siamo visti, dico, Gloriano, ti devo chiedere scusa, perché ho guardato nei miei libri, nelle mie cose, ho trovato che un San Cigolino è esistito sul serio. E lui mi guardava, aveva nasato la presa, e dice, sì, sì, dico sì, anzi, hanno scritto delle laude medievali in onore di San Cigolino e del suo mulo. Dico, vuoi sentire una? Sì. Dico, allora che spunti il mattino, si alza Santo Cigolino e poi balza sul suo mulo e va all'ego a fare in culo. Ho capito, lo tiriamo via. Dico, bravo, lo tiriamo via. Nella scrittura insieme ai nomi fantasiosi di Gloriano fa da contraltare la tua onomastica precisa, botanica, un po' dialettale, cioè insomma di oggetti del dialetto. Infatti questa si riconosce laddove c'è la tua proprio puntigliosità onomastica. Beh sì, lì fa, l'ho vissuto di più l'Appennino, poi come sai ho anche fatto un vocabolario di dialetto pavanese e quindi un po' lo parlo il dialetto pavanese. Io, come sai, sono bilingue, parlo il dialetto modenese di mia madre e il pavanese di mio padre. Se avessi avuto una madre francese e un padre inglese, avrei risolto tanti altri problemi della vita. Col dialetto modenese e il pavanese si va poco avanti, lo so questo. Comunque qualche cosa si può fare. E quindi, per esempio, io ricordo, io ho vissuto in una casa, il mulino di miei nonni, dove non c'era l'acqua corrente, non c'era ovviamente il riscaldamento, c'era solo il camino. E l'acqua veniva presa dal pozzo con un secchio di rame a fondo tondo chiamato calcedro, che è vocabolo dell'esarcato bizantino, il greco bizantino, pensate, che veniva appeso di fianco al lavandino e si beveva con un ramaiolo appeso di vicino, si metteva giù il calcedro, si beveva con un ramaiolo e così, insomma, fra l'altro il lavandino che Gloriano si ostina a chiamare alla bolognese, però acquaio. No. Acquaio, mi pare, credo che ci sia acquaio. Acquaio, sì. Perché sono i dialetti italiani sono buffi, perché ogni città quasi hanno dei nomi particolari. E l'acquaio, poi come si chiama pure l'idraulico a Bologna? Fontaniere. Il fontaniere. Ah, in Toscana il trombaio, c'è il Kamsalavaz, il Concialavegi, che era quello che cuciva un po' come la giara del famoso racconto, faceva dei buchi, poi li univa con un filo di rame, e, perché una volta non si buttava via niente, se ci si rompeva una terrina veniva aggiustata, poi con un mastice, con... E così tanti vocaboli fra Favana, che confina col bolognese, sono mezzo e mezzo, insomma. E soprattutto i nomi dei funghi, nomi locali, dialettali dei funghi, i nomi dei fiori, delle piante. Perché tanti, diversi anni fa, girando per un bosco, guardavo un fiore e dico, ma che fiore è quello lì? Mi sono sentito un povero bischero, perché dico... Ma come sono giro qua per voi, non so come si chiama quel fiore lì. Allora ho cominciato a prendere i libri e adesso conosco molti nomi di fiori. Con le piante certe le conosco, certe no, è più difficile con gli alberi. Con i fiori forse è più facile. E quindi lì ho un vocabolario a disposizione, ecco. E tante cose. Leggo una pagina. Anche perché poi forse ci potrei dire qualcosa su questo della notte solitaria di Gherardini, che a me non so perché ma ha ricordato, ha fatto venire in mente alcune descrizioni che ci sono in grandi romanzi di notti solitarie di partigiani su per le montagne, appunto. Un po' mi ha richiamato questo. Il sentiero si fece più aspro e roccioso e più erto, ricoperto di piccole pietre che rotolavano sotto i suoi piedi. Nel lato a valle non c'era più il declivio dolce di prima, ma un deciso strapiombo, per cui dovette fare attenzione a dove metteva i piedi. Il sentiero saliva sempre più e fu necessario aggrapparsi a qualche roccia sporgente. Scivolò qualche volta, provocando piccoli smottamenti di terra morbida. Finalmente raggiunse un ampio pianoro. Era giunto sulla cima del monte, il più alto della zona. Si fermò a riposare, ad asciugarsi il sudore. Scusa, allora se tu dal rifugio dell'Orsigna vai per il sentiero verso il Corno alle Scale, c'è un sentiero che taglia, un sentiero, un affarino mezzo così, no? Poi in mezzo c'è la fontana, una fontana che getta anche in pieno agosto un'acqua freschissima, dove lui si ferma a bere, lì. Arriva verso il Corno delle Scale, che questo sentiero finisce, devi un po' arrampicare su. Ti arrampichi, può essere anche pericoloso perché c'è lo sbalzo tremendo che va giù. E arrivi sul Corno delle Scale, che è il monte più alto della zona. Cioè, io l'ho fatto, questo coso qua. E quindi lo racconto. Loriano non l'ha mai fatto. Allora poi dipinge, si infervora dei particolari, lo arricchisce. Io l'ho fatto, quindi lo so, e si fa arrivare là. Chiedo scusa, come va? Si leggo altre due. Il panorama era fantastico. Dalla cima si arrivava lontano con lo sguardo, una serie ininterrotta di catene montuose. Sapeva che nelle giornate veramente limpide, guardando verso ovest, si sarebbe potuta intravedere la linea della Corsica, ma solo nelle giornate di estrema visibilità, quelle del primo autunno. È anche stato fotografato. Non quel giorno che già il calore del sole rendeva l'orizzonte incerto di umida foschia. Sotto a sinistra, a una certa distanza, riluceva lo specchio di un piccolo lago glaciale, l'acqua appena increspata da una leggera brezza. Che il lago Scaffaiolo, quello di cui parla anche Boccaccio nel suo De Silvis, eccetera, eccetera, raccontando la palla che allora credevano a queste cose qua, che ci fosse un condotto sotterraneo che lo univa al mare e che se gettavi il lago Calano, gettavi una pietra, si scatenava un temporale tremendo nel lago Scaffaiolo, che invece poi un tranquillo lago glaciale, quindi. Questa è tua. Si incamminò verso nord-ovest, dove sapeva che avrebbe trovato quel piccolo lago montano, poco più di uno stagno, al centro del quale, in piccole isole affioranti, avrebbe potuto trovare una drosera. Non so se drosera o drosera. Rotundifoglia. Una piccola pianta carnivora, l'unica di quelle specie, a quanto conosceva, presente in Italia. Verso nord-ovest, verso il Modenese. Perché il lago di Partignano, che è questo dove c'è, è un lago anche questo di tipo glaciale, che è l'unica torbiera esistente nel nord Italia. È nelle piccole isolette, cioè è bassissimo questo lago. Ci dovrebbe essere la drosera rotundifoglia, che io non sono andato, ma non l'ho mai vista perché sono mai andato al centro del lago. È andato fin là facendo una fatica bestia, perché bisognava dal cavone del Corno delle Scale, bisognava scendere fin giù, dove c'è il Dardagna, che è un torrente che scorre lì, puoi risalire su, c'è un ampio pianoro, e camminando attraverso il pianoro si arriva al lago di Partignano, che è bello, affascinante, ma la drosera non l'ho vista, maledizione. Tu hai detto di recente, almeno ho letto, una tua intervista, e posso immaginare che questo sia vero, che a scrivere tu tendi, nella scrittura ti sei definito barocco, quindi alla moltiplicazione, alla dilatazione della parola, della frase, e nel giallo soffri il fatto che bisogna essere più stringati, bisogna appunto andare un po' allo scheletro della trama di volta in volta. Questo è una caratteristica appunto della tua prosa, se infatti si leggono poi libri che non sono gialli, naturalmente questo aspetto emerge molto ed emerge in tutta la sua qualità. Quindi da una parte ci sono i tuoi romanzi, usiamo questa etichetta barocchi, dall'altro c'è il giallo che ti riduce alla stringatezza della prosa, dall'altro c'è l'arte, come dicono anche i filologi, del torre, che è quello della poesia e della canzone. Ti sei mosso benissimo fra queste scritture, quindi, e ti muovi benissimo fra queste diverse scritture, quindi hai da dire qualcosa? Ma sì, il giallo interessa, al di là che possa essere scritto anche in maniera piacevole, quello che interessa al lettore è la trama. C'è un morto, e già descrivere come questo morto è interessante, è curioso poi. E l'indagine che non deve lasciare spazio, deve, ogni capitolo ti deve venire voglia di leggere quello successivo, perché se si va a lungo lo cacci via, insomma, non... Vabbè che il giallo è una lettura di comoda, facile, puoi leggere in treno un giallo, puoi leggerlo così, non ha bisogno, non prendi appunti mentre leggi un giallo, insomma, almeno secondo la mia visione del giallo, non mediti su un giallo, deve essere, è la trama che ti deve portare alla fine, ti deve portare alla soluzione del caso, dire, oh, porco cane, ecco, non ci ho pensato a quello lì o a quella lì come assassino, guarda te, mi ha fregato l'autore. E ci devono essere dei colpi di scena, cioè ogni tanto ci deve essere un capovolgimento, un qualche cosa che... E questo ovviamente, il linguaggio deve essere stringato, non deve abbandonarsi in barocchismi, grosso modo, deve essere funzionale alla trama, funzionale ai personaggi essenziali, scabri, tutto sommato. E così, insomma, litighiamo, non litighiamo mai, Loriano e io. Andiamo sempre di buon passo e molto amichevolmente, ma le discussioni che facciamo sono sempre che Loriano vuole baroccare, vuole descrivere, vuole raccontare, e tant'è vero che questo racconto di Gherardini, di Foiana, l'ispettore della forestale, che si inepre in questo monte, poi va a questo lago di Pratignano, che nel mio racconto dura un giorno solo, Loriano l'ha fatto diventare di 4 giorni. Non solo, ma io dico che si porta dietro delle razioni K, le razioni K ci saranno anche nell'esercito, nel formidabile esercito svizzero, penso, sono quelle che si adoperano nel campo, cioè sono delle confezioni in cui c'è carne in scatola, nell'esercito italiano c'è anche della minestra di fagioli, che una volta ho provato a mangiare, ignobile, ma c'è un carne in scatola, una cioccolata buonissima peraltro, fatta, che adesso purtroppo non funziona più, di tutto farmaceutico militare di Firenze, faceva della cioccolata veramente buona, poi faceva un superalcolico chiamato Cordiale, che era poi una specie di cognac, non so bene, ma era molto buono l'anice, forte, buono, poi c'era un fornelletto con cui mettevi la meta, la scaldavi per scaldare la pasta e i fagioli, per scaldare anche il caffè liofilizzato, insomma, eccetera. Una volta c'era una bustina con 10 nazionali che adesso ho tirato via. Sì, ahimè. E beh, io ho smesso di fumare da 1 mese e 10 giorni, quindi sono ancora abbastanza nervoso. Insomma, questo parte con delle razioni per un giorno che mi mandava un amico che era militare, e assieme a me, che poi lui ha fatto la firma, si era fermato, io sono scappato via, ovviamente, giustamente. Ma arrivava il cordiale o l'anice dell'anicione del lusso militare, e c'era la prima scrematura, era fatta dagli ufficiali superiori, ma la seconda, la più pericolosa, era fatta dai marescialli, perché i marescialli erano una potenza, solo una potenza dell'esercito italiano. La terza scrematura era fatta da noi giovani ufficiali, noi sottotenenti. Infatti il militare ero col grado di sottotenente, ero ufficiale. e tremavamo molto. E tutta questa cosa veniva allungata con dell'acqua che poi passava ai soldati semplici, dopo una grande scrematura, insomma. Per dire. E questo amico che ha fatto la firma, poi è andato in pensione col grado di generale, perché raggiungono il grado di colonnello, poi fa in pensione e sono promossi in generale per avere la pensione più ricca. E mi mandava ogni tanto delle razioni K che stavano per scadere e venivano sostituite. E io le usavo quando andavo a fare le mie girate. Il povero Gherardini parte con una razione per un giorno e questo lo fa sta fuori 3 giorni. Perché c'ha fame. Certo, sì. E poi, nel mio racconto, Gherardini, come successe a me quando andai a Padignano, vede solo un cavallo, perché capitato su questo pianoro vedo un cavallo e veramente c'era, c'era che lì vicino allevano cavalli, non lo so, insomma, c'era una cana. Loriano ci ha messo dentro tutti gli animali possibili e immaginabili dell'Appennino tosca-emiliano, vede volpi, lupi, puzzole, addirittura una poiana, che il rapace che scende dal cielo becca un serpente e si innalza e dice: sembra quasi un presagio. Ah, sono convinto che sembra quasi un presagio, ce l'hai messo tu apposta, ecco perché sembra quasi un presagio. E ne abbiamo discusso a lungo e poi dico: vabbè, lascia pure tutti gli animali che vuoi. E mi viene in mente che diceva Borges, il grande autore argentino, che se un occidentale scrive un romanzo sul Medio Oriente si infila dentro subito un dromedario e delle palme per fare colore locale, ma uno del Medio Oriente che scrive un romanzo sul Medio Oriente non ha bisogno di metterci il dromedario e le palme, perché lo sa come che la vita vuole fare il colore locale senza i dromedari, senza le palme. E quindi Loriano, che non è un vero montanaro, deve fare riempire di montanarità e quindi è pieno di volpi, di lupi, così. Pussole, penso a te. Hai citato Borges. Io qui ho una brevissima frase di Borges da farti commentare. In tutti i casi la poesia è precedente alla prosa. Si direbbe che l'uomo canti prima di parlare. È bella. Ma può darsi che questo è lui, da grande autore, qual è stato. È una visione molto, molto direi quasi romantica, tutto sommato, che l'uomo prima di parlare abbia iniziato a cantare, ma prima di scrivere poesie, di scriverle, sicuramente le ha cantate. Questo è, si sa, è assodato, che l'uomo cantava i versi, cantava anche Dante, ha scritto delle canzoni, non so se le ha cantate lui o quel tipo di cantautore fosse Dante Alighieri, però allora usava cantare i propri versi. E quindi sicuramente, no, nel senso che questo poi mi porta anche a, appunto, chiederti qualcosa del rapporto nella tua scrittura fra la prosa e la poesia canzone. Cioè, sono due cose completamente diverse, questo sì, è ovvio, appunto. Ma proprio nei meccanismi della scrittura? Penso che non ci sia. Penso che, allora, la canzone io la scrivevo con un foglio di carta e una penna, anche i foglietti di carta più strani e disparati. Avevo bisogno del rapporto diretto con la carta. Il romanzo lo scrivo col computer. Sono già l'impostazione diversa, è differente. Io non sarei mai riuscito a scrivere una canzone direttamente sul computer. Avevo bisogno di un altro approccio, di un altro sistema, forse mentale, psicologico. Mentre la prosa mi riesce. Non ho mai paura dello schermo vuoto, della pagina bianca, se vogliamo, ma parlo dello schermo vuoto. Perché quando mi metto lì a scrivere so più o meno quello che voglio scrivere, quello che so, vado scrivendo, ecco. E mentre la canzone è, hai un'idea e questa idea devi raccontare in versi, in strofe, anche su scritto delle canzoni molto lunghe, però sempre essenziali. Cioè non, il verso ha una quantità di sillabe più o meno abbiamo l'endecasillabo, abbiamo il martelliano, ma più di tanto, insomma, non vai. E anche le strofe non possono essere tanto lunghe. Quindi devi stringere nella canzone, devi essere più essenziale. Nella pagina scritta puoi dilungarti, puoi scrivere a mezza pagina, una pagina, due pagine. Nel giallo, anche lì, come dicevo prima, sei più stringato. Ma quando scrivo le cose mie, insomma, mi diverto. E quando rileggo, allungo sempre, non lo stringo mai. Allungo sempre il brodo, diciamo così. Ti leggo altre poche righe che secondo me possono piacerti. Tu racconti spesso che, adesso non so se accada ancora, però ti arrivano CD di giovani che vorrebbero sapere da te se hanno attitudini appunto a fare i cantautori, e ti arriveranno anche racconti, pezzi di romanzo di qualcuno. Questi ti arrivano meno, poesie, ecco, va bene, poesie drammatiche, ecco. C'è una bella paginetta di uno scrittore intelligente e ironico come te, che è Giorgio Manganelli, che dice questo: supponiamo che mi si presenti un giovane che si ritenga, a torto o a ragione, destinato ad essere scrittore. Un numero enorme di giovani ritiene di essere destinato a essere scrittore. È impossibile capire se la convinzione sia fondata o infondata. È quasi sempre infondata, ma ci vorranno degli anni per capirlo. In taluni casi il dubbio non verrà mai sciolto. Tuttavia è inevitabile che tra 1.000 e 10.000 convinti di essere scrittore, uno scrittore ci sia. Già, ma tutti e 10.000 crederanno di esserlo. C'è un metodo per controllare? Non lo so. In ogni caso mi sentirei di dire al giovane in questione: c'è una probabilità su 10.000 che lei sia destinato a scrivere Guerra e Pace o L'Amleto. Forse, se la pigliamo così alta, le probabilità sono molto meno. Mettiamo ad ogni modo che lei sia Shakespeare o Tolstoi. Che cosa vorrei dirle? Che per scrivere L'Amleto, o anche molto meno, l'università di lettere non le darà nulla. La consiglierei di iscriversi a chimica, archeologia, geologia. Lei ha bisogno di metafore, di allitterazioni, di iperboli. Ha bisogno di perdere tempo e di commettere degli errori, molti errori. Le serve il cattivo gusto, ha bisogno di letture sciocche e inattendibili, ha bisogno di refusi. In una parola, non pensi di imparare a scrivere frequentando chi frequenta la letteratura. Niente di peggio che fare letture giuste. Lei dice di essere Shakespeare? Può darsi, anzi ci credo. Per questo le dico, si iscriva a geologia. Glielo diresti a un giovane di iscriversi a geologia? Iscriversi a geologia magari no, ma di leggere tanto, molto, veramente tanto, sì. Leggere il più possibile. Perché sono, come ho detto l'altra volta, sono della teoria del maiale. Cioè, sembra strano, ma il maiale lo nutri bene. Lo nutri, quando viene sacrificato, il prosciutto sarà sicuramente migliore, il salame sarà sicuramente migliore se l'hai nutrito bene. Se non l'hai nutrito, il povero maialetto rimane lì così, non ci ricavi niente. Oppure, se vogliamo parlare del maiale, parliamo del salvadanaio. Se riempi di piccoli risparmi il salvadanaio, quando lo rompi c'è qualcosa dentro. E così uno nutrito di letture, qualcosa più o meno tirerà fuori. Poi dopo sono varie altre cose che concorrono. A me arriva soprattutto poesia, e da quando hanno inventato il verso libero la poesia è drammatica, perché col verso libero tutti si credono grandi poeti. Le foglie che cadono sul tavolo, respiri d'autunno in questa giornata ottobrina. Ecco, questa è una poesia. Ottobre, autunno o altre cose del genere. E un'altra cosa che volevo dire è che molti cantautori si sono creduti scrittori. Sono una serie di colleghi che hanno scritto tutti, però ne hanno scritto uno o due. Bisogna scriverne di più per arrivare a un certo... Beh, io siamo 8 gialli, se non altro qualche cosa al di là dei miei 3 Quanti ne ho scritti? Troppi. Aspetterò di scrivere anche Gialli, come ho messo di scrivere canzoni. Senti, ma già pensato al prossimo? No, più o meno, però Loriano mi sta telefonando quasi ogni giorno, perché col fatto che Gherardini non va più fare il forestale, dice: cosa facciamo il prossimo giallo? Dico, piano, dobbiamo pensare se fare un altro giallo. Ah no, dice, ma dobbiamo fare, ma con chi lo dobbiamo fare? Dobbiamo vederci per parlare di chi sarà l'eroe del prossimo giallo. Dico, adesso vediamo. E difatti mercoledì lo presentiamo a Bologna e Loriano vuole, dopo che ci vediamo, parlare dell'eroe del prossimo giallo. E quindi, ma io terrei Gherardini, poverino, ma non so se rimane nei forestali o meno, adesso vediamo. Però fare l'elfo. E scrivere i gialli è anche divertente, perché ti senti un po' un demiurgo. Hai dei personaggi che puoi gestire a tuo piacimento, li puoi far morire, li puoi far sopravvivere. Un giorno, e poi chiudiamo, perché ormai sì, è tardi. No, ti faccio un'ultima domanda sul... Ero al telefono con Loriano e dico, allora ammazziamo. Ah sì, bisogna ammazzarla quella lì. Come, la impicchiamo? Sì, dai. E ci dirà, c'era una signora che stava facendo le pulizie. Guardi, stiamo parlando di un giallo, non si preoccupi, non ammazziamo nessuno. Ecco, succede. E di tuoi libri hai qualcosa in cantiere? Un libro senza Loriano? Sì. Beh, adesso uscirà, a parte il fatto dei libri, deve uscire in novembre, credo. Hanno trovato, c'era a Bologna un'osteria gestita da l'Osteria delle Dame, non so se, non credo sia arrivata la fama dell'Osteria delle Dame. Sì, vedi? Hanno trovato alcuni concerti fatti all'Osteria delle Dame, solo Flacco e io, tutte e due. E sono interessanti e curiosi, verranno, faranno un piccolo box con questi tre concerti con 6 CD, eccetera, con introduzione di vari personaggi che hanno frequentato l'Osteria delle Dame. E contemporaneamente io sto facendo, sono già, ma non alla fine, appunto, però abbastanza avanzato, una specie di cronache epifaniche, però oggi. Cioè, cos'è cambiato dagli anni 40-50, che è l'ambientazione delle cronache epifaniche, a oggi? C'è l'Appennino che sta morendo, l'Appennino che è in via di dissoluzione. Non è tutto cambiato, non c'è più. E cos'è cambiato e in che modo è cambiato questo Appennino? E sto facendo questa cosa qua, non so quando uscirà, ma adesso questo è il lavoro che sto facendo. Beh, l'aspettiamo questo, anche perché non è un'operazione semplicissima, però è molto attraente, appunto. Ma quando mi metto lì vado via come un treno, però. Sì. Però sto pensando all'ultima cosa che mi sono fermato, perché si vede che scrivere senza avere la sigaretta di fianco mi riesce ostile. Non ricordo che cosa... Ah, che sì, che non ci sono più, per esempio, a Pavana c'erano tre sarti, c'erano due calzolai, c'erano due mulini, adesso non c'è più niente. Non c'erano sarti, non ci sono calzolai, non c'è più mulino, e quindi niente, non c'è più niente. Non ci sono più pavanesi, non ci sono più pavanesi. Ogni tanto qualcuno muore e ci sono delle donne, delle vedove, più di vedove pavane. Ogni tanto anche loro muoiono, però, perché sono più resistenti degli uomini. C'è una centenaria, è morta, 102 anni aveva, e un giorno, dico, Fosca si chiamava, Fosca, dico, Fosca, condoglianze, è morta sua sorella a 98 anni. Dice, morta poverina, la nostra famiglia siamo sempre stati deboli di cuore. Ecco così. Ma non ci sono più pavanesi. Va bene, Francesco, ascoltarti è sempre molto piacevole, ma è anche molto piacevole leggerti, quale che sia la forma appunto di scrittura che pratichi. Grazie della vostra pazienza. Ciao, buonasera.